Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Vorrei intervenire sulle proposte di regolamentazione degli scioperi nel settore trasporti, che in questo settore sono legati a un principio, ovvero che lo sciopero deve comportare un danno per l'azienda. Considerando i casi Alitalia e Ferrovie dello Stato, società cronicamente in perdita, ho la percezione che lo sciopero provochi alle società un beneficio, nel senso di minori perdite, al posto che un danno. Se poi consideriamo che i treni che vengono soppressi sono nelle fasce orarie non protette, che sono anche quelle che comportano perdite per la scarsa affluenza, gli scioperi incrementano le ore di possibile manutenzione del materiale viaggiante, consentendo quindi alle società che hanno in appalto la gestione di evitare di lavorare in orari straordinari. Inoltre, con gli scioperi c'è un minor consumo di energia elettrica. Mi sembra che sia palese che senza scioperi le FS avrebbero registrato maggiori costi, senza significativi incrementi di fatturato, il che, semplificando, potrebbe voler dire che lo sciopero è favorevole alle FS. Stesso ragionamento andrebbe applicato al caso Alitalia. In passato ho discusso della cosa con un ferroviere, il quale mi disse che il danno di immagine è comunque rilevante. Sarei d'accordo se si operasse in regime di mercato concorrenziale. Ho molti dubbi che tale affermazione valga in Italia, dove tali società operano in regime di monopolio o quasi. Inoltre, da pendolare di lunga data, ogni volta che festeggio il Capodanno ho la certezza che il nuovo anno, tra le altre cose, mi porterà almeno 15 giorni di sciopero delle ferrovie, concentrati principalmente a metà tra il periodo di Pasqua e le ferie di agosto, e per l'altra metà tra agosto e Natale, con qualche preferenza verso il fine settimana, principalmente giovedì e venerdì. Ho anche la percezione che la motivazione dello sciopero sia del tutto aleatoria e poco interessante. Dal cittadino della strada lo sciopero è percepito come prassi consolidata per garantire un po' di ferie aggiuntive ai dipendenti FS e all'Italia. Marco. Caro direttore, vivo in un paese in cui i rappresentanti del Parlamento sono nominati dai partiti e non eletti, e dove la legge non è uguale per tutti. Sono cresciuto pensando che la democrazia volesse dire uguaglianza e che fossero i cittadini a dover obbedire alle leggi. Leggi create dal Parlamento per volontà del popolo, non leggi che si adattino a singoli cittadini. Non mi riconosco quindi nei valori di questo governo, ma non solo per questo aspetto della conduzione del paese. Sento tanto parlare dell'emergenza criminale e del problema degli immigrati. Credo che gli immigrati non siano un problema, ma una straordinaria risorsa, e che siano perseguitati perché fondamentalmente deboli in quanto a basso tenore economico. Non hanno alcuna influenza presso le stanze del potere e soprattutto sono facilmente identificabili, allo scopo di poter creare un nemico contro cui sfogare le frustrazioni che tutti noi proviamo nella vita di tutti i giorni. Vivo in una zona di immigrati e non ho mai avuto problemi. Lavorano, si preoccupano della famiglia, cercano di avere qualche soldo da mettere da parte, si sforzano di avere una vita decente, senza per questo perdere le loro abitudini. Trovo affascinante la vita nel mio quartiere, dove posso parlare con musulmani senegalesi e odorare per la strada cibo indiano. Li saluto e ottengo in cambio anche un sorriso, cosa molto rara tra le persone del posto. Insomma, mi sembrano più umani, se mi passa il termine. Rifiuto pertanto l'equazione immigrato uguale delinquente. Credo che il vero problema sia non tanto l'immigrato, quanto il cittadino che delinque, indipendentemente dal colore della pelle e dalla religione. Chi delinque mortifica moralmente e materialmente la società e va giudicato da un tribunale e messo nelle condizioni di non nuocere. Queste sono regole che vanno rispettate da tutti, e non da tutti meno quattro, con una legge ad personam. Ma non sembra che sia nell'interesse dei nominati rendere efficace il sistema giudiziario, e sospetto che parte del motivo risieda nel fatto che la percentuale dei condannati in Parlamento sembra essere equivalente a quella di alcune zone degradate di Napoli. Come può un Parlamento così composto e nominato lottare efficacemente contro la criminalità? Sarebbe quasi come lottare contro se stesso. Mi trovo a disagio a vedere invece i militari per la città, mentre nessuno cammina più la sera qui al nord e non sappiamo più passare il nostro tempo in un modo che non sia soltanto acquisti o lavoro. Mi piacerebbe che il mio fosse un messaggio di pace e serenità nella lotta per qualcosa di vero. Giovanni. Ancora non capisco perché ci dovrebbe essere bisogno di un permesso per fare ronde in giro per le città, a parte la questione demagogica che i politici stanno portando avanti. Ma davvero stiamo ritornando al fascismo quando c'erano divieti di assembramento? Siamo o no cittadini italiani liberi di circolare a qualunque ora per le nostre città in gruppo o da soli? Se io e qualche amico vogliamo girare per la città alle 3 di notte, possiamo farlo. E se vediamo commettere un reato, come cittadini siamo legittimamente autorizzati dal codice ad intervenire e anche ad arrestare il presunto criminale. Sono ancora valide queste leggi? O mi sono perso qualcosa? Pierluigi. Cara Radio 24, in questi giorni le vicende Battisti e il film tratto dall'autobiografia del terrorista Seggio, finanziato con soldi pubblici, hanno riportato di attualità il tema degli anni di piombo. Molti protagonisti di quel terribile periodo chiedono la cosiddetta soluzione politica della vicenda, da realizzarsi mediante un indulto o un'amnistia. La motivazione che sento più spesso ripetere è vero, sono state commesse cose terribili, molti innocenti sono stati uccisi, una scia di dolore è stata sparsa. Però quelli erano anni particolari. Esisteva in Italia un clima da guerra civile, il potere era fortemente repressivo delle libertà individuali, pertanto, se non una giustificazione, una certa comprensione per quello che è successo bisogna averla. Chi è giovane oggi, leggendo interviste ad ex terroristi o a personaggi oggi famosi come lo scrittore Harry De Luca, potrebbe pensare che negli anni 70 in Italia esisteva un regime di tipo sudamericano, con corpi paramilitari che venivano a prelevare gli oppositori di notte dalle loro abitazioni, facendoli sparire nel nulla, e con la popolazione repressa ma pronta a sollevarsi contro un regime dittatoriale. Non è vero. Io in quegli anni ero già abbastanza grande per capire cosa succedeva e per averne oggi un ricordo nitido. L'Italia di quegli anni era un paese con 1000 problemi, ma era fondamentalmente democratico. Non c'erano carceri speciali o polizie segrete. La stampa era libera, paradossalmente molto più di oggi perché c'erano più testate e meno concentrazione editoriale. Nascevano le radio libere, veramente libere, perché ce n'erano a centinaia, fatte in casa con pochi soldi, non legate a network come quelle attuali. Esistevano grandi partiti politici di massa, la DC, il PCI, il PSI, fortemente radicati e presenti nel territorio e non ancora bacati dalla corruzione che si manifesterà a partire dalla seconda metà del decennio successivo. Si poteva manifestare liberamente. Nelle grandi città, cortei di studenti e lavoratori erano organizzati praticamente ogni giorno. In quegli stessi anni venivano varate leggi di grande progresso civile. La legge sul divorzio, quella sull'aborto, il diritto di famiglia, la maggiore età a 18 anni, lo statuto dei lavoratori, le prime leggi sulla parità tra uomo e donna, solo per citarne alcune, sono tutte leggi degli anni 70. Purtroppo oggi si leva ancora troppo forte la voce mistificatoria di alcuni protagonisti di quegli anni, che nonostante il tragico fallimento delle loro idee, trovano spazio e benevolenza tra alcuni esponenti della classe politica e intellettuale italiana, mentre troppo deboli sono le voci in difesa delle vittime, che, ricordiamolo sempre, erano tutte innocenti. Francesco, Torino. La crisi. Tutti danno colpa alle banche che non danno credito. Ma sarà vero? Ecco la mia versione. È da qualche anno che si parla del nuovo accordo di Basilea, detto Basilea 2, e credo che le banche l'abbiano finalmente messo in atto. Eh già, perché Basilea 2 obbliga le banche a valutare la propria clientela attraverso dei rating che devono essere almeno di 8 livelli oltre al parametro di rischio di probabilità di default. Basilea impone alle banche di accantonare l'8% sul totale dei loro affidamenti concessi alla clientela. Tuttavia, questa percentuale può drasticamente diminuire se la loro clientela è di rating 1, ossia di buona solvibilità e a basso rischio. Cosa significa questo per la banca? Minore è la percentuale di accantonamento, maggiore è la sua liquidità che può investire diversamente, aumentando il profitto. I clienti adesso sono analizzati continuamente con molta più attenzione. E cosa è emerso? Quello che si sa da sempre, ossia che in Italia la maggior parte delle società sono sottocapitalizzate e i soci non vogliono investire il proprio denaro. Adesso che le banche hanno deciso di fare un po' di pulizia, passatemi il termine, tutti gridano all'ingiustizia e alla mancata fiducia da parte delle banche nella propria clientela. Mi dispiace fare l'avvocato difensore delle banche perché è un settore che da sempre aiuta solo chi ha i soldi, ma non possiamo pretendere che diano credito a persone che per prime non credono nella propria attività. Perché se l'imprenditore per primo non dà il buon esempio, investendo nella sua attività, non possiamo pretendere che lo faccia un estraneo, tra l'altro a fronte di dati di bilancio che spesso danno gran poche garanzie. Sono stanca di vedere imprenditori che arrivano in ufficio con auto di lusso e poi non pagano i fornitori o i dipendenti e accusano gli altri per il loro insuccesso. Tanto poi mettono l'azienda in liquidazione e ne riaprono un'altra, lasciandosi tutti i debiti alle spalle. E questo perché il sistema glielo permette. È facile guadagnare quando le cose vanno bene, ma bisogna anche ricordarsi che quando gli affari vanno male, quei soldini che si sono portati a casa in tutti questi anni, bisogna andarli a riprendere. Siamo tutti bravi a fare gli imprenditori con il grano degli altri. Carla, Padova. Gentile direttore, giravoce che Giotto, Michelangelo e Caravaggio siano italiani. Giravoce che anche Galilei, Galvani e Marconi siano italiani. Addirittura si dice la stessa cosa di Vivaldi, Verdi e Puccini. Alcuni americani mi hanno addirittura detto che Brunelleschi, Borromini e Palladio sono italiani. E poi ci sono un sacco di altre voci che citano artisti, scienziati, ricercatori, architetti, musicisti, stilisti, filosofi e dicono che sono anche quelli tutti italiani. Sa che non ci credo mica tanto a queste voci. No, perché se così fosse, se tutti quei nomi lì fossero veramente italiani, la cultura, i beni culturali, l'istruzione e la creatività sarebbero i protagonisti assoluti dello sviluppo socio-economico del nostro paese. Se così fosse veramente, se noi italiani fossimo così creativi, con tutte quelle idee in tutti quei campi, avremmo un patrimonio incredibile, imbattibile. Altro che oro nero, altro che l'abilità organizzativa dei tedeschi. Se così fosse, avremmo scuole e università che sviluppano e tutelano la nostra creatività. Avremmo laboratori di ricerca enormi, fondi per aziende creative, musei di arte contemporanea. Ma se così fosse, saremmo soprattutto i leader mondiali nella creatività e nell'arte. Vabbè, basta fantasticare, basta perdersi. Fortunatamente non è così. Grazie moltissime. Michael. Caro Michael, grazie e complimenti per la sua ironia, ma non condivido l'amarezza della sua analisi. L'Italia è davvero un paese dove la cultura e la creatività non solo sono stati, ma restano i protagonisti dello sviluppo. Certo, non sappiamo sfruttare fino in fondo le bellezze artistiche, abbiamo sacrificato il paesaggio, soprattutto sulle coste, abbiamo perso posizioni nella capacità di attirare i flussi turistici. Ma l'Italia, la nostra Italia, rimane un paese di grandi espressioni culturali e nella struttura delle sue imprese propone esempi di forte capacità creativa e innovativa. La storia non si è fermata. Nell'Italia di oggi la grande maggioranza delle persone si muove con una voglia di essere protagonista anzitutto del proprio futuro e insieme dell'intera società. La possibilità di uscire anche dalle attuali difficoltà sta in grandissima parte nelle nostre mani, creando soprattutto fiducia, l'unico strumento per costruire le premesse di una nuova fase di crescita economica. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.